Intanto voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riorganizzazione, a quella che noi chiamiamo riforma dell'emergenza urgenza, che si compone di vari livelli di riorganizzazione, fra cui quella territoriale. Per coloro di voi che non siano ipocondriaci, dentro l'accordo c'è per esteso una casistica di patologie che i medici di medicina generale nei loro ambulatori associati, i centri di assistenza per le urgenze CAO nelle case della comunità, piuttosto che in prossimità dei DEA di primo e di secondo livello, piuttosto che in qualche struttura ospedaliera territoriale che già oggi di fatto si caratterizza per una totalità di prestazioni, diciamo, circoscritte nei codici bianchi e codici verdi. Queste prestazioni non necessitano di un medico rianimatore, di un medico di emergenza urgenza, ma che oggi compongono il 70% degli afflussi al pronto soccorso. Noi siamo partiti da lì, abbiamo cercato di capire come valorizzare da un lato le professionalità che oggi compongono la medicina territoriale, da un lato però anche facendo riferimento al fatto che il 70% di cittadini avverte un bisogno urgente di salute che però non è nelle tipologie del codice giallo, codice rosso e che hanno altri canali ovviamente di emergenza, sui quali interverremo ovviamente, ma che però compongono il flusso enorme di persone che vanno nei nostri pronto soccorso, soprattutto quelli più grandi. L'80% degli accessi è in una struttura in Emilia Romagna che sono idea di primo e di secondo livello, però più in generale ci sono questi accessi nei pronto soccorsi che tenteremo di drenare sul territorio. Per fare questo occorre davvero reinventare, ripensare alla presa in carico territoriale e quindi rimettere in mano la organizzazione della continuità assistenziale, dotare i medici delle tecnologie adeguate, produrre una formazione ulteriore, perché questo è un progetto anche formativo e questo è il presupposto affinché la riforma dell'emergenza urgenza dell'Emilia Romagna possa cominciare. Entro fine giugno, massimo i primi di luglio, noi ci siamo ripromessi di approvare la delibera previo accordi sindacali per condivisione con i sindacati della riorganizzazione dell'emergenza urgenza, ma senza questo passo non sarebbe stato possibile, perché questa è la garanzia che il territorio messo nelle migliori condizioni possibili possa, cerchi di offrire una presa in carico dei cittadini affinché non arrivino nei pronto soccorsi, perché ha le competenze, la professionalità, la capacità clinica, avrà adesso le tecnologie anche diagnostiche e via dicendo. Quali sono le due alternative alla riforma dell'Emilia Romagna? La prima è quella della privatizzazione e della esternalizzazione e non siamo interessati ad un modello che, diciamo, privatizzi la struttura dei pronto soccorso. L'altra alternativa è che, in ragione del venir meno progressivo e dilagante, poco arrestabile sul fronte della demografia professionale, delle professionalità di medici di emergenza urgenza, che saranno sempre di meno nei prossimi anni, molte regioni fanno fatica a tenere strutture e quindi le chiudono. Per non chiudere le strutture che sono di riferimento ai cittadini, anche se magari non hanno bisogni di emergenza, e per non andare verso una privatizzazione, noi abbiamo cercato di investire sulle forze che abbiamo, quindi la medicina territoriale, lo sviluppo tecnologico, l'azione professionale. Cioè qui stiamo parlando di un sistema che vuole reagire ad una situazione che altrimenti sarebbe ineluttabile verso il collasso delle strutture. Abbiamo pensato a tanto? Sì. Abbiamo pensato a tutto? No. Monitoreremo la cosa insieme, cercheremo di ulteriormente affinarci laddove è possibile farlo, però lavoriamo insieme e abbiamo accettato, questo sì, una comune assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini affinché la Regione Emilia Romagna maturi anche in questo campo una resilienza che la rende oggi il sistema più virtuoso a livello, con i mille problemi che abbiamo da affrontare e che affronteremo. Quindi da questo punto di vista sono molto contento, perché non era scontato questo accordo, e il fatto che ci si crede da parte del sindacato ampiamente più rappresentativo, diciamo, della medicina territoriale, che mi pare arrivi a quasi l'80% degli aderenti. Insomma, stiamo parlando comunque di un accordo basato su un rapporto solido, ecco, che intendiamo ulteriormente valorizzare.